2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 12 settembre 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Anche questa puntata, che è la prima puntata della nostra nuova stagione 2009-2010, dicevo, anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet, anche attraverso il sistema, il servizio podcast. Quindi online su www.radio24.it trovate tutte le informazioni per abbonarvi gratuitamente a questo servizio, che vi dà la possibilità di scaricare settimana dopo settimana, anche in maniera automatica, fa tutto il software se lo volete. Dicevo, il file MP3 della nostra trasmissione, in questo modo avete la possibilità di riascoltarci quando preferite, anche a pezzetti se volete. Ogni settimana molti dei nostri ascoltatori, che ringrazio, ci scrivono per dirci come ci riascoltano, che c'è chi ci riascolta sui propri smartphone, chi sul BlackBerry, chi su Nokia, chi su iPhone, su altri sistemi, c'è chi si fa i CD e li ascolta in autoradio, che c'è chi ci inserisce all'interno del sistema autoradio magari una chiavetta piena di file MP3, insomma ci sono tanti sistemi, c'è ad esempio anche chi ascolta semplicemente sul computer o chi lo fa in diretta il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30. Bentornati. Prima dell'estate avevamo detto che gli Stati Uniti erano alla ricerca del responsabile per la sicurezza informatica del paese. Bene, il ruolo è talmente delicato che ancora la scelta non è stata fatta. Notizie di questa settimana dicono che il presidente Barack Obama dovrebbe presentare entro una o due settimane il nuovo coordinatore per la cybersicurezza americana. Di Barack Obama, dell'amministrazione americana, riparleremo anche più tardi, perché ci occuperemo di spazio, del futuro delle missioni spaziali. Alcuni di voi sapranno che questa notte è rientrato a terra lo Space Shuttle alla base aeronautica americana californiana di Edwards, una missione di due settimane iniziata il 28 di agosto. Parleremo più tardi di spazio del futuro, perché proprio l'amministrazione americana dovrà prendere alcune decisioni importanti, non solo per gli Stati Uniti, ma un po' per tutto il sistema che gravita attorno alla Stazione Spaziale Internazionale. Nei prossimi mesi, nelle prossime puntate, torneremo a parlare di uno dei temi che ci sta maggiormente a cuore, cioè quello della diffusione di Internet, sia in termini culturali ma anche in termini geografici, quindi dei piani delle aziende, in particolar modo e principalmente di Telecom Italia, e anche delle tecnologie per portare internet in banda larga in tutto il paese. Ci sono ancora oggi troppe zone che non sono coperte da ADSL o nemmeno da reti UMTS, dal 3G, che oggi spesso viene associato ad una tecnologia che è una sorta di upgrade di queste reti, che è l'HSPA, quindi un 3G più evoluto, alcuni dicono 3,5G in attesa del 4G tra 2-3-4 anni. Qualcosa stanno facendo con grande passione, tra l'altro, gli operatori che propongono tecnologia Hyperlan, mentre la diffusione del WiMAX è ancora molto lenta. Di tutto questo parleremo prossimamente. C'è anche da sottolineare e da registrare che i piani del governo per iniziare almeno ad abbozzare un piano per la costruzione di una rete di prossima generazione sono fermi. Nulla si muove su questo fronte, questo è veramente un peccato. Gli operatori qualche cosa stanno facendo. Da pochi giorni Fastweb ha presentato Joy, che propone il solo collegamento ad internet, quindi su rete fisica, su ADSL, accoppiato ad una chiavetta UMTS, ma purtroppo siamo ancora a un livello di prezzi troppo alto, perché parliamo di circa 29 euro al mese, e internet dovrebbe costare meno se esistono offerte televisive, ad esempio, che costano meno. Ci sono, pensate, offerte quasi flat su rete 3G che costano 19 euro, 3 ad esempio propone per 19 euro al mese, quasi una flat, dicevo, 300 ore mensili di collegamento, quindi 10 ore al giorno, che assomigliano appunto ad una DSL flat. Quindi costi delle connessioni su cavo, quindi su doppino di rame, la DSL o anche su fibra, dovrebbero costare molto meno dei 29, quando va bene, euro al mese, o 19 se sono accoppiati ad un abbonamento telefonico, ma appunto va poi associato il canone, quindi si va oltre i 30 euro mensili. Parleremo in futuro anche di Wi-Fi, proporremo tra l'altro nelle prossime settimane di liberare il Wi-Fi pubblico, il cui sviluppo è oggi di fatto bloccato da un obbligo di registrazione di ogni utente che si connette, un obbligo di legge collegato ad una legge antiterrorismo. Pensate che negli Stati Uniti, dove sicuramente di antiterrorismo si occupano tutti i giorni e se ne intendono, esistono migliaia di reti in alberghi o in altri luoghi pubblici a disposizione liberamente dei cittadini. Quelle operazioni qua in Italia sono invece così appesantite dalla burocrazia che gli operatori sono sicuramente scoraggiati e questo mercato è di fatto fermo. Ci sono molti altri temi che torneremo ad affrontare presto, come quello dei pagamenti elettronici, ad esempio, e in particolare dei micropagamenti. Un sistema semplice è fondamentale per fare decollare veramente il commercio elettronico. Sicuramente c'è, a proposito di commercio elettronico, un esercente online che ha trovato la chiave per il successo. La musica è stata ed è ancora oggi per la Apple la nuova linfa vitale che ha portato iTunes, il software che permette di accedere al negozio della Apple, pensate, ad essere il numero uno al mondo. Ma non stiamo parlando solo del numero uno nel settore musicale. Oggi l'iTunes è il negozio in generale su internet numero uno al mondo. L'iTunes, che tra l'altro è arrivato proprio da pochi giorni alla versione numero 9, ha 100 milioni di conti che corrispondono più o meno a 100 milioni di clienti. Pensate quante ricerche, quanta business intelligence può essere fatta su 100 milioni di clienti in tutto il mondo. Ma la notizia della settimana non è la nuova versione del negozio di Apple, ma è riassunta da questi applausi. E questi sono gli applausi, durati quasi un minuto, che hanno accolto giovedì l'amministratore delegato della Apple, Steve Jobs, che è riapparso in pubblico per la prima volta dopo circa un anno e dopo un trapianto di fegato, un organo donato da un ragazzo ventenne morto in un incidente stradale. I'm very happy to be here today with you all. Jobs ha presentato la nuova versione dell'iTunes, che alla ricerca sempre di nuovi clienti ha lanciato, tra le altre novità, l'opzione LP. Pensate, non solo canzoni, ma interi album accompagnati da foto, video, testi e altri contenuti, così come in passato eravamo abituati a vedere tutti questi contenuti sugli LP. Finally something I really love. iTunes LP. Naturalmente qua stiamo parlando di LP virtuali, quindi tutto appare sullo schermo di un computer mentre una volta potevamo toccare, ma del resto questo cambiamento dal mondo fisico al mondo virtuale lo sperimentiamo tutti i giorni anche con altre tecnologie, non solo con la musica, che ci ha abituato appunto ad un trasferimento da qualche cosa di fisico ad un qualche cosa che invece definiamo spesso come liquido. Ci sono altre novità che sono state presentate questa settimana da Jobs, un aggiornamento ad esempio della gamma degli iPod, in particolare del Nano. We're really excited today to announce that the iPod Nano, the world's most popular music player, now comes with a built-in video camera. Questa che state sentendo è la voce di Stan Hang, il responsabile mondiale per il marketing degli iPod, che ci spiega che il nuovo iPod Nano ha ora una videocamera, un microfono per registrare e anche, secondo me questa è forse la novità più bella, almeno per quanto ci riguarda, finalmente una radio FM. Tra l'altro con una funzione molto divertente, forse anche molto utile, che è una funzione che ci permette di fare il cosiddetto time shifting, cioè si sta ascoltando la radio in FM in diretta, magari, speriamo, Radio 24, se si deve rispondere al telefono o fare qualche cosa o si vuole semplicemente fermare un attimo l'ascolto, si può mettere in pausa. In quel momento l'iPod comincia a registrare quello che sta andando in onda e nel momento in cui riprendiamo l'ascolto spingiamo play e la registrazione che è stata fatta ci viene proposta, quindi diciamo indifferita. Dopodiché, se uno vuole, può tornare all'ascolto normale. Una cosa che alcuni sono abituati abituati a fare anche con sistemi televisivi, quello dello spostamento, del cosiddetto appunto time shifting, è un'esperienza appunto che stiamo cominciando a vivere grazie ad alcuni sistemi negli ultimi anni. Ma c'è un altro aspetto interessante delle tante cose che sono state presentate questa settimana dalla Apple, una riguarda l'iPod Touch, cioè quel prodotto che è molto simile all'iPhone, che si può guidare, pilotare, comandare con il tocco delle dita. Beh, su questo prodotto c'è una strategia della Apple che è focalizzata sul videogioco, cioè sostanzialmente Apple dice: questa è una piattaforma, potrà essere in futuro una nuova piattaforma per i videogiochi. Ne abbiamo parlato anche per sapere un parere con Jaime D'Alessandro, che da molti anni segue il mercato dei videogiochi. Non so quanto sia stata voluta inizialmente questa cosa, lo spostamento dell'iPod Touch come console, ma di fatto ormai i numeri insomma sono quelli: 21.000 applicazioni per il gioco, il 70% delle cose scaricate da iTunes per iPod Touch e iPhone sono videogiochi. Di fatto stiamo parlando di console che vanno a competere quindi con PSP e con DS di Nintendo. La cosa interessante secondo me è il modello di business che cambia completamente, quindi la possibilità di scaricarsi cose gratuite e a prezzi molto contenuti da un lato, ma dall'altro il fatto che sono entrambe delle piattaforme perfette per dar sfogo a tutte quelle piccolissime realtà in giro per il mondo che sviluppano giochi, che erano di fatto state tagliate fuori da tutte le piattaforme gaming classiche. Questo perché su quelle da casa i costi di sviluppo ormai sono di livello cinematografico, cioè un gioco per PS3 o 360 può costare, arriva a costare 10 milioni di euro. Non sono costi che permettono un tipo di accesso a chiunque. Invece su iTunes trovi tante piccole produzioni molto interessanti, tant'è che il mercato giapponese di videogiochi, che sta morendo praticamente, sta comunque è molto in calo negli ultimi anni, tante firme del mondo dei videogiochi giapponesi sono tolti dalle vecchie software house, stanno in proprio e sviluppano cose piccole ma molto molto interessanti appunto per piattaforme di divertimento immediato come può essere iPhone e iPod Touch. Abbiamo già visto altri che hanno tentato di entrare nel mercato delle console partendo da un altro mondo, Nokia ad esempio con N-Gage. In questo caso tu vedi una differenza che potrebbe essere un vantaggio per Apple per fare concorrenza a colossi come Nintendo e Sony? Beh, la Nokia ha fatto tante cose di successo nella sua storia. Sicuramente l'entrare o il tentare di entrare nel mondo dei videogiochi non è fra queste. Il primo N-Gage è stato un fallimento, il secondo come piattaforma non mi sembra sta avendo molto successo, proprio perché hanno tentato di portare brand appunto molto noti sul mondo delle console tradizionali sui telefonini, quando la gente poi sul telefonino gioca magari aspettando il treno o la metropolitana o piuttosto l'autobus. Ho l'impressione che Apple questa cosa dei videogiochi gli sia un po' esplosa in mano. Cioè, come se loro non si aspettavano, secondo me, un successo di questo tipo. E questo è stato buono. Cioè, in qualche maniera hanno, come dire, preso atto del successo e sono andati poi seguendo l'onda. Mentre invece la Nokia l'ha progettata a tavolino l'entrata nel mondo dei videogiochi, sbagliando completamente il target, sbagliando la strategia. Faranno concorrenza alla Sony o alla Nintendo? Dipende, secondo me alla Sony sì, alla Nintendo meno, perché la Nintendo più che badare al market share o alle quote o al bada quanti soldi fa, ovvero produce console che sono in grado di produrre guadagno immediato. Non gli interessa tutto sommato stare sugli scudi conquistando i mercati, gli interessa essere una società che fa profitti e fa tanti soldi, e finora ci stanno riuscendo. Per di più si muovono poi su un mercato che un target, soprattutto su, parliamo della parte mobile, che è più diciamo fatto di un pubblico di adolescenti, preadolescenti, bambini, su quali secondo me Apple non è particolarmente forte. Bene, in questa puntata di 2024, come avete sentito, cerchiamo anche di tracciare alcuni dei trend che vedremo nel prossimo futuro, nei prossimi mesi. Come sapete, uno dei temi di cui ci occupiamo spesso è l'elettronica di consumo pensata per la casa, per il salotto, per l'intrattenimento domestico. Saluto il nostro esperto di audio e video digitale, Gianfranco Giardina. Bentornato, Gianfranco. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Tu da poco sei stato all'IFA di Berlino, che è, potremmo dire, oramai, almeno per l'Europa, il punto di riferimento ad inizio stagione per l'elettronica di consumo. Poi c'è sicuramente un altro appuntamento, che è quello di fine anno, ma quello riguarda gli Stati Uniti. Che cos'è l'IFA? L'IFA è ormai l'unica grande fiera, almeno continentale, diciamo, europea, di elettronica di consumo, che recentemente ha aggiunto anche il settore del cosiddetto bianco, quindi elettrodomestici piccoli e grandi, quindi riguarda tutto quello che troviamo nelle grandi superfici specializzate di consumer electronics, tanto per intenderci. Ci sono alcuni trend che immagino voi racconterete, tu e la tua redazione racconterete anche su dday.it, che questa nuova avventura che partirà la prossima settimana, entro la prossima settimana, è un sito internet dedicato a questi temi. Sì, è un grande portale di tecnologia spiegata per tutti, che serve fondamentalmente per essere informati e per riuscire a scegliere bene i propri acquisti, sia dall'audio video, informatica, IT, mobile, quindi telefonia, GPS, e anche tutta la parte contenuti, quindi la parte legata ai DVD, Blu-ray, videogame, eccetera, eccetera. Quindi lo ricordiamo, lo ricorderemo anche nelle prossime puntate, dday.it. Naturalmente www.dday.it, che sta per Digital Day, giusto? Digital Day, sì, certo. Digital Day. Oramai ogni giorno ci svegliamo con un apparecchio digitale, spesso esatto, un telefonino, e tutta la nostra giornata è scandita da apparecchi digitali, quindi quelli seguiremo e saranno appunto coperti da tutta la nostra attività giornalistica sul sito. Senti, allora, quali sono i trend che voi avete individuato non solo visitando l'IFA di Berlino, ma anche respirando l'aria di tutti i giorni che vedete non solo in Italia, ma un po' in giro per l'Europa e il mondo? Ma un grande trend è quello della visione tridimensionale, quindi dello spettacolo tridimensionale, che è stato forse il tema della stagione cinematografica quest'anno. Il tema, perché mentre le sale dimostrano come sempre una qualche flessione negli ultimi anni nel botteghino, insomma, quindi nelle presenze al cinema, le sale attrezzate per la proiezione 3D, che hanno fatto vedere dei film in 3D, hanno avuto invece un grande successo, con un incremento molto importante delle presenze. Quindi si è parlato, a livello appunto cinematografico, di spettacolo, molto di 3D, e si vuole iniziare a parlarne anche per quello che riguarda lo spettacolo televisivo domestico, che è una novità che ancora non c'è e non arriverà nelle prossime settimane, perché si aspetta la standardizzazione di nuovi formati per quello che riguarda i supporti, per quello che riguarda la trasmissione del segnale verso i TV, e anche per quello che riguarda la funzionalità dei TV, ma poi magari vediamo nel dettaglio quali sono le proposte. Però all'IFA di Berlino, e comunque nelle fiere, negli appuntamenti internazionali, sempre più vengono mostrati prototipi funzionanti di televisori 3D che permettono di vedere con degli appositi occhiali dei contenuti tridimensionali molto coinvolgenti. Ovviamente il coinvolgimento è legato anche alla dimensione dello schermo. Ah, certo. Al cinema c'è uno schermo molto grande, il coinvolgimento è molto importante. Il 3D in casa funziona se si ha un TV comunque sopra i 42 pollici, ecco, con un TV da 32 pollici avere un'immagine tridimensionale probabilmente è un qualcosa serve di... serve a poco. sì, simpatico, sì, carino, sì, i primi 5 minuti, ma di certo non aumenta il coinvolgimento. Sì, diciamo che con il 3D quello che cambia è che quando, non so, uno allunga la mano, sembra che la mano arrivi quasi sul divano dove siamo seduti. È assolutamente sì, è realismo totale. Per ottenere questo scopo, cos'è necessario? È necessario che all'occhio destro arrivi un'immagine differente da quella che arriva all'occhio sinistro, perché è quello che poi succede nella realtà. Quando noi vediamo un oggetto vicino o particolarmente vicino, i due occhi che sono ovviamente spostati l'uno dall'altro vedono lo stesso oggetto sotto due angoli leggermente diversi, e questo ci dà l'effetto della tridimensionalità, questo nel mondo reale. Per avere lo stesso effetto su un'immagine che di fatto è bidimensionale, perché lo schermo è a due dimensioni, ma per avere lo stesso effetto tridimensionale bisogna studiare uno stratagemma che ci permetta di vedere con un occhio una cosa e con un altro occhio una cosa molto simile ma leggermente diversa, quindi la visione dall'altro punto di vista. In questo modo l'oggetto non è più schiacciato nello schermo ma esce. Nel nostro sistema percettivo lo vede come un oggetto tridimensionale, quasi da spaventarsi se un oggetto ci arriva addosso. Sì, ecco, questo è assolutamente realistico. Senti, io ho fatto una prova al cinema, se uno si toglie gli occhiali vede male, cioè vede tutto sfocato proprio perché non c'è più questo effetto. Nelle TV sarà, immagino, la stessa cosa? Sì, così se si stanno vedendo delle immagini tridimensionali, ma una delle cose che va subito sfatata, perché l'ho sentita dire già da qualcuno, è che il TV 3D non serve per vedere soltanto il 3D, cioè è un normalissimo TV che permette di vedere le immagini bidimensionali alle quali siamo abituati, film, telegiornale, tutto quello che si vuole. Però se è un TV abilitato alla tecnologia tridimensionale, con dei contenuti 3D, ecco che può permettere, con gli occhiali che vanno appunto messi, di vedere in 3D. Certo, se in famiglia si è in 6 e col TV vengono dati in dotazione soltanto due occhiali, ecco, bisognerà comprare gli altri 4 occhiali per poter vedere tutti, perché ovviamente senza occhiali si vede un'immagine sdoppiata, sì, e un po' fastidiosa. Senti, per futuro intendiamo entro la fine dell'anno, cioè si potrà acquistare una TV del genere e soprattutto ci saranno i contenuti, immagino, so, dischi, Blu-ray oppure trasmissioni vere e proprie, o pensiamo invece tra addirittura un anno? Allora, il consorzio Blu-ray internazionale ha annunciato proprio a Berlino che sta lavorando alacremente alla standardizzazione di un nuovo formato Blu-ray, che sarà un Blu-ray 3D, quindi diciamo come contenuti assolutamente, come formato, come estetica assolutamente identica ai Blu-ray normali, soltanto che conterrà il doppio film, quello dell'occhio destro e quello dell'occhio sinistro, sì, tanto per intenderci. Quindi prima bisogna aspettare che sia standardizzato questo formato. Il consorzio ha anche chiarito un altro aspetto, che il disco dovrà essere assolutamente compatibile all'indietro, quindi se viene inserito in un lettore non 3D funzionerà come un film 2D, cioè si vedrà soltanto un punto di vista, quindi potrà comunque funzionare, non ci sarà questa confusione, però saranno come dei Blu-ray enhanced, quindi che offrono oltre al film normale anche quello 3D. Messo nel player opportuno e collegato a un TV opportuno funzioneranno, ma aspettare questa standardizzazione, aspettare che vengano i contenuti, che si diffondano e che i TV siano disponibili non più come prototipi ma come prodotti finiti, io penso che ci vorranno almeno 2 anni prima di arrivare a un prodotto finito. Sì, molto, perché è tutto il sistema, l'ecosistema che si deve muovere, non è un prodotto solo, ci deve essere il TV, ci deve essere la standardizzazione del sistema di collegamento, la standardizzazione del formato. Quindi per il momento ci accontentiamo, almeno per chi abita vicino ad una città o comunque vicino ad un cinema che si è già aggiornata questa tecnologia, ci accontentiamo di andare a vedere i film in 3D al cinema. Questo è quello che poi la storia ci insegna, perché al cinema le innovazioni arrivano sempre prima. Il formato panoramico, il Vista Vision, il CinemaScope è arrivato prima al cinema e poi è arrivato in TV. L'audio multicanale è arrivato prima al cinema e poi è arrivato anche a casa. E adesso stiamo parlando del cinema 3D che c'è al cinema e arriverà a casa fra qualche tempo. Senti Gianfranco, visto che quando parliamo di alta definizione parliamo del Blu-ray Disc, il successore del DVD, vorrei sapere da te quanto costano oggi i lettori per i Blu-ray e anche quanto costa un Blu-ray. E poi parleremo nella seconda parte di 2024, sempre con Gianfranco Giardina, di una nuova tecnologia che in qualche modo serve per facilitare le connessioni dei vari strumenti che abbiamo a casa, quindi la TV, il computer, una macchina fotografica, una stampante, eccetera, eccetera, con maggiore facilità. Una tecnologia che ha un nome un po' complesso, ma invece tenta di semplificare tutte queste connessioni. Parleremo anche di spazio, del futuro delle missioni umane nello spazio. A tra poco. Seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30. Bentornati a 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Tra poco parleremo del futuro delle missioni spaziali con Simonetta Di Pippo, che guida il Dipartimento per le missioni spaziali umane all'interno dell'Agenzia Spaziale Europea. Adesso stiamo parlando di elettronica di consumo con Gianfranco Giardina, abbiamo parlato di alta definizione, abbiamo parlato di 3D in modo particolare, ma naturalmente tutto ciò segue il trend dell'alta definizione che arriva fino allo schermo di casa nostra. Dicevo poco fa, quando parliamo di alta definizione parliamo del Blu-ray Disc, che prenderà il posto gradualmente del DVD e comunque oggi è il formato per l'alta definizione. Gianfranco, qual è lo stato del mercato dell'alta definizione, quindi del Blu-ray Disc? Allora, il mercato deve essere ancora forse capito da tutti gli utenti. Io credo che un forte aiuto arriverà dal lancio, questa volta massiccio, che i broadcaster stanno facendo della TV in alta definizione, soprattutto Sky. Quindi si parla molto di contenuti TV in alta definizione, ecco, questo per la messa in onda, diciamo, online, ma se voglio vedere i contenuti offline, quindi vedere a casa il mio film quando voglio, ecco, l'unico formato disponibile è il Blu-ray. Beh, paga un po', a mio avviso, il fatto di non chiamarsi Super DVD o DVD in alta definizione, cioè questo Blu-ray Disc non è assolutamente per il momento ancora nella testa di tutti i consumatori. Ho capito. Anche se i segnali sono ottimi, anche Toshiba, che aveva inventato e supportato il formato che è nato come concorrente, quindi l'HD DVD, ha presentato all'IFA il suo lettore Blu-ray Disc, quindi non solo ha abbandonato l'HD DVD ma ha sposato l'altro formato, che ormai è l'unico formato standard, e ci si aspetta che entro qualche tempo, non dico tutti i titoli usciranno soltanto in Blu-ray, ma comunque saranno molto diffusi e i lettori Blu-ray saranno, immagino, l'unico lettore disponibile. Oggi un lettore Blu-ray quanto costa? Prezzo entry level, giusto? Per entry level andiamo dai 149 ai 199. Vabbè, sì, quindi prezzi abbastanza popolari. Sì. Un disco? Un disco, le offerte incominciano a trovarsi a prezzi molto aggressivi, quindi anche 12,99, 14,99, anche se alcuni titoli novità sono ancora posizionati molto alti, fino a 24,99, 29,99. Quello che io guardo e consiglio di guardare per capire quando finalmente il Blu-ray diventa un supporto conveniente è la differenza rispetto al DVD. Sì, certo. Ecco, ritengo che sia corretta una differenza di 3, 4, 5 euro tra il supporto in bassa definizione e il supporto in alta definizione, che offre uno spettacolo molto più bello, ma in fondo il contenuto poi è lo stesso. Quando le differenze sono intorno ai 10 euro, 12 euro, beh, qui allora giustificarlo diventa un po' più difficile. Altre cose interessanti che hai visto all'IFA di Berlino, abbiamo parlato tempo fa di una tecnologia che ha un nome un po' complicato, ma poi nella realtà ci offre tante possibilità, ci penso semplifica la vita in salotto, in casa. La tecnologia si chiama DLNA, detta all'italiana, DLNA. Sì, è la dichiarazione di fallimento degli uomini di marketing rispetto a quelli ingegneri, cioè è una cosa meravigliosa, bellissima, con un nome assolutamente improbabile, sì. impossibile. E sta per Digital Living Network Alliance, questo DLNA, ed è uno standard di comunicazione tra apparecchi di marche diverse, client e server, cioè apparecchi che contengono al proprio interno dei contenuti foto, audio e video, sì, e degli apparecchi sulla stessa rete, quindi la rete locale di casa, quindi una rete wifi per esempio, che possono visualizzare o riprodurre, ascoltare, cioè quindi far ascoltare i file audio o far vedere le foto e i video. Quindi è uno standard per far dialogare prodotti diversi? Assolutamente sì. Mm. Cosa succede? Quando un apparecchio cosiddetto DLNA compliant, quindi compatibile con questo standard, viene attaccato fisicamente, cioè a filo o wifi, a una rete locale, la prima cosa che fa è si dichiara e dice a tutti gli altri che stanno sulla rete, salve, io sono un server, per esempio, quindi sono un computer, sì, no? Per esempio, ho al mio interno tante foto, tanta musica e tanti filmati, se qualcuno intende riprodurli chiedetemi che vi mando i titoli, il catalogo, così potete navigarlo. Allo stesso modo un client, per esempio un TV con la presa di rete, un Connected TV, che cosa fa? Quando arriva sulla rete dice io sono un TV, ho questa risoluzione, posso riprodurre video, foto e musica, se qualcuno ce ne ha me lo dica. Me sì. Tutto questo avviene senza che l'utente debba fare niente o debba impazzire in collegamenti, autenticazioni, cose particolari. Quindi è una specie del vecchio, per i computer, plug and play, cioè io lo attacco a una cosa alla rete e questo funziona. Assolutamente sì. Quindi la cosa interessante è che è uno standard e quindi non è legato a un marchio, quindi io posso legare per esempio un TV Sony con un computer qualsiasi piuttosto che con un NAS, quindi con un disco di rete sì, piuttosto che con qualsiasi altro apparecchio. Un esempio visto all'IFA molto carino è una fotocamera Wi-Fi, quindi con la compatibilità Wi-Fi e DLNA appunto, che permette di far vedere sul TV di casa, se il TV è DLNA ovviamente anche lui, le foto che si sono appena scattate senza collegare neanche nessun filo, semplicemente dice mandala alla TV, io vedo quando dico manda a, vedo la lista di tutti gli apparecchi che sono già sulla rete che potrebbero ricevere quella foto, vedo la sigla del mio TV, invio e il mio TV automaticamente mi fa visualizzare la fotografia. Allo stesso modo questo avviene per esempio con i computer. Va detto che Windows 7, il cui lancio è il prossimo 22 di ottobre, contiene già al proprio interno, senza bisogno di aggiungere nessun altro software, la pieno supporto di DLNA. Quindi qualsiasi computer Windows 7 attaccato alla rete, ecco che diventa un server di DLNA. Addirittura permette di fare il Play 2, il cosiddetto Play 2, quindi non solo posso navigare dal TV, per esempio, i contenuti, sceglierli e mandarli in riproduzione, ma posso dal PC forzare la riproduzione su un TV, e questo può essere utile anche in alcuni ambiti professionali, per esempio un negoziante che avesse in vetrina un TV per far vedere la presentazione dei propri prodotti potrebbe dal computer anche dell'ufficio, quello che usa per l'amministrazione, prendere e inviare al TV i contenuti senza occupare per questo un TV dedicato e senza dover andare a operare sul TV che essendo in vetrina è scomodo da raggiungere. Sì, molto interessante, quindi questa potrebbe essere questo è uno standard che, diciamo, fa parlare il mondo dell'informatica col mondo dell'elettronica di consumo più tradizionale, quello che, di cui parliamo spesso. Assolutamente sì. Senti, i prodotti DLNA enabled, cioè, o comunque compliant, quindi sì, abilitati per queste cose, ci sono già o è difficile trovarli? No, ce ne sono già tantissime, sono già in negozio. Purtroppo questo nome non aiuta a comunicare che cosa possono fare. Devo dire che anche i negozi non si prestano a sperimentare, perché in un negozio difficilmente io ho una rete locale dove posso connettere apparecchio con apparecchio, posso vedere nei migliori negozi il singolo apparecchio in funzione, ma difficilmente tutto l'ecosistema, e quindi è difficile da comunicare per via dei nomi, è difficile da proporre per via delle superfici di vendita e delle proposte che ci sono. Si diffonderà per forza, i prodotti sono già tanti, bisogna vedere questo loghino verde scritto sulle scatole, sulle confezioni, appunto, di LNA, e tutti i prodotti di LNA compatibili lo sono e lo saranno, a prescindere dal marchio, e questa è la cosa più importante. Hai citato un altro trend tecnologico che sono le connected TV, le TV connesse. Allora, normalmente le TV sono connesse solo all'antenna, o ad un decoder, oggi che parliamo di digitale terrestre o di segnali che arrivano dal satellite. Le connected TV sono TV uguali alle altre, che però hanno una presa di rete. Ne abbiamo già parlato altre volte, però mi sembra di aver capito che all'IFA di Berlino tu hai visto qualche cosa di più di alcuni modelli. Sì, ne abbiamo parlato perché queste TV già esistono dall'ultima stagione, sono già in commercio, e la loro utilità, diciamo, fondamentale è quella proprio che dicevamo prima, di connettersi alla rete locale con lo standard di LNA e colloquiare con gli apparecchi di casa. Ma una volta che sono collegato a una rete, se uno ha un router, un accesso sempre attivo a internet, quindi un accesso a DSL, ecco che comunico anche con internet. E allora ci si chiede se l'attacco vero del TV verso il mondo esterno è sto benedetto cavo d'antenna, che ha anche il difetto di essere di fatto monodirezionale, riceviamo dall'etere le informazioni ma non possiamo interagire, o il cavo di rete, dove possiamo ricevere informazioni ma anche mandarne, oppure scegliere e determinare il nostro intrattenimento. La prima cosa più semplice che si fa con queste TV è quella di navigare tutti i contenuti di YouTube, per esempio, piuttosto che vedere in tempo reale tutte le proprie gallerie di foto su Flickr, o interagire con i propri social network su Twitter o su Facebook direttamente, per esempio mentre si guarda il TV in split screen, quindi metà schermo vedo la pubblicità, le ultime novità di Facebook, della mia pagina di Facebook, e dall'altra parte continua uno spettacolo televisivo. E questo è una applicazione. Quello di cui invece si incomincia a parlare in maniera importante, sempre più insistente, è di fatto un netcasting video, quindi una distribuzione proprio di video attraverso la rete, è fatta sulle piattaforme che ogni produttore TV integra all'interno dei propri apparecchi. Stiamo parlando di Connected TV, quindi TV che si connettono anche alla rete internet. Gianfranco Giardina sta per farci un esempio che riguarda da vicino l'Italia. Gianfranco. Faccio l'esempio di Sony, perché è quello che riguarda più da vicino il nostro paese, almeno per il momento, perché a Berlino ha annunciato che sulla propria piattaforma, che si chiamerà Bravia Internet Video, che verrà integrata nei Connected TV di Sony, tra i marchi delle emittenti che partecipano a questa piattaforma, quindi di cui sarà possibile vedere i contenuti, è comparsa anche Mediaset Premium. Quindi è un primo esempio di broadcaster italiano famoso che sbarcherà su questa piattaforma, come anche ci risulta che Samsung stia lavorando in questo senso. Che cosa succede? Che cosa sarà possibile fare? Ecco, perché se io devo vedere canale 5 Italia 1, perché ho bisogno di internet, esatto. In realtà, perché adesso non si sanno ancora i dettagli, si sapranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma si presume che sia possibile rivedere per esempio gli ultimi 5 giorni di programmazione, no? Scegliendo il programma che si è perso in video on demand. Quindi se per caso mi è sfuggita l'ora, mi sono dimenticato che andava in onda a tal trasmissione, semplicemente avevo un impegno, ecco, il concetto di videoregistrazione lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, incomincia sempre più a diventare grigio, a diventare così netto. Di questo ne parleremo, perché ci sono molte polemiche. In questo senso il servizio potrebbe permettere di rivedere per esempio le ultime trasmissioni. Il fatto che tra i marchi citati da Sony non sia comparso il marchio Mediaset, ma il marchio Mediaset Premium, lascia pensare che sarà un servizio che comunque sarà tariffato. Peraltro già la stessa Mediaset con il servizio Rivideo no, offre più o meno, solo su computer però, non su TV, un servizio molto simile, che è un servizio a pagamento, quindi poter rivedere per esempio le ultime puntate dei serial che si sono persi piuttosto che le trasmissioni. Sì, potrebbe essere vista questa come una risposta al My Sky. Assolutamente sì, è come se fosse un MySky infinito, no? Perché non c'è bisogno di decidere deliberatamente di registrare una trasmissione. La trasmissione è già sul server di Mediaset, si può decidere di guardarla, e quindi di guardarla anche in un secondo momento, non nel momento in cui andate in onda. Quindi diciamo così, è come se quando una trasmissione va in onda sul canale via etere tradizionale sia la diretta, chiamiamola così, quindi il momento in cui lancio la prima, e in qualsiasi momento però sia possibile rivedere in differita quella trasmissione, e questo sicuramente è una nuova frontiera dell'intrattenimento televisivo. Sì. Il fatto, l'unica cosa che ecco non è entusiasmante da parte nostra, è il fatto che non ci sia una piattaforma unica come nel caso del DLNA, quindi condivisa tra tutti i produttori, ma Sony offre la sua piattaforma sui propri TV e quindi avrà dei canali e dei servizi. È chiaro. Samsung ha la sua piattaforma con altri canali e altri servizi e così via, e quindi a seconda del televisore, del marchio televisore che si compra, non cambia soltanto l'estetica, il design, la qualità dell'immagine, ma può cambiare anche il tipo di intrattenimento che quel televisore può dare. E questo ovviamente apre un nuovo capitolo nei motivi di valutazione della scelta di un TV. Cioè, non solo l'estetica, non solo le funzionalità, non solo la qualità d'immagine, ma anche che cosa offre la piattaforma di quel produttore. Sì, molto interessante, molto bello. Oggi non abbiamo più tempo per approfondire, perché questo trend ci apre, come tu dicevi, ad altri trend, non ultimo il fatto che molto probabilmente cambierà il modo con cui noi vedremo la TV nel futuro, cioè le trasmissioni in diretta, in streaming, forse diventeranno la parte minoritaria dell'ascolto, perché quasi tutti, grazie a questi sistemi, si guarderanno quando vorranno i programmi che vogliono. Questo potrebbe succedere anche alla radio con l'evoluzione del podcast, ma avremo modo di riparlarne in altre puntate. Gianfranco, io ti ringrazio per essere stato con noi nei nostri studi, in bocca al lupo per dday.it. Grazie mille, a presto. Adesso, come vi abbiamo annunciato, parliamo di spazio. Questa notte è atterrato la base americana di Edwards nel deserto del Mojave in California, lo Space Shuttle Discovery. Sono state ancora una volta le cattive condizioni meteo sul Kennedy Space Center a Cape Canaveral a fare decidere alla NASA di utilizzare l'opzione californiana, che solitamente viene tenuta come ultima possibilità visti i costi poi di trasferimento della navetta dalla California alla Florida. Si conclude una missione di 2 settimane iniziata la notte del 28 agosto, che ha visto arrivare sulla stazione 7 astronauti. Uno di loro ha sostituito uno dei membri della stazione, che è tornato a terra dopo 2 mesi di orbita. La stazione arriverà la prossima settimana un cargo giapponese, verso la fine del mese una Soyuz russa che trasporta anche un turista dello spazio, il fondatore del Cirque du Soleil, che avrebbe pagato per questa gita 35 milioni di dollari. C'è molto traffico sulla stazione spaziale internazionale. Il prossimo viaggio dello shuttle è previsto per il 12 novembre, quando verrà lanciato l'Atlantis. Mancano, non so se tutti lo sanno, ancora 6 voli, solo 6 voli di una navetta americana, dopodiché alla fine del 2010 il programma Space Shuttle, iniziato nel 1981, terminerà e le navette verranno messe a terra. L'America e tutto il mondo si interroga sul futuro delle missioni spaziali. Gli Stati Uniti stanno lavorando ai prossimi razzi che porteranno gli uomini sulla stazione spaziale, una stazione che orbita, lo ricordiamo, a 350 km dalla superficie terrestre. Il 31 ottobre verrà lanciato l'Ares 1X, un razzo test per preparare quello che dovrebbe portare l'uomo in orbita dal 2015. Ma tutto ciò è in fase di revisione da parte dell'amministrazione americana. C'è una commissione che ha presentato i lavori proprio questa settimana e presenterà alla fine del mese al governo 5 opzioni per il futuro dell'esplorazione dello spazio. In ogni caso, scrive la commissione, la NASA non ha i soldi per proseguire il lavoro, qualunque sia la scelta tra le 5 opzioni. Di questo tema del futuro delle missioni spaziali, anche del ruolo che ha l'Europa, abbiamo parlato con Simonetta Di Pippo, che dopo una lunga esperienza all'Agenzia Spaziale Italiana guida ora il Dipartimento per il Volo Umano all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Gli Stati Uniti sono uno dei paesi principali nell'ambito della Stazione Spaziale Internazionale, insieme ai russi. E questo chiaramente implica che una decisione politica sul futuro dello spazio negli Stati Uniti ha un impatto in qualche modo sui principali partner internazionali, in questo caso anche sulla Russia, pur essendo la Russia uno dei principali paesi. Chiaramente ci aspettiamo che l'amministrazione Obama abbia un atteggiamento aperto nei confronti dei partner internazionali. Ci sono state varie dichiarazioni sia del presidente Obama ma anche recentemente del nuovo amministratore della NASA, Charlie Bolden, che sembrerebbe far pensare ad un'apertura ulteriore verso i partner internazionali. E questo è un pochino anche nei fatti, nel senso che la Stazione Spaziale Internazionale è un esempio di collaborazione internazionale, ma il livello di collaborazione che abbiamo oggi è stato raggiunto faticosamente, nel senso che all'inizio le difficoltà culturali, le differenze culturali, il fatto anche dei diversi orari, fare una teleconferenza a tutti i partner internazionali può sembrare una banalità, ma in realtà diventa complicato, perché mettere insieme gente a Houston a meno 7 ore da noi e i giapponesi a meno 6, up to 6, diventa non banalissimo. Ecco, questi sono, diciamo, degli esempi, possiamo considerarli anche banali, ma che danno un po' l'impressione e anche la sensazione di quanto sia complessa la gestione, anche perché poi ci sono diversi centri di controllo a Mosca, in Europa, negli Stati Uniti, e chiaramente c'è una coordinazione tra tutti questi centri anche per seguire i lanci shuttle e poi il docking con la stazione, eccetera. Quindi in realtà all'inizio è stato tutto un processo di conoscenza reciproca e anche si è dovuto un po' imparare a mettere insieme questi processi. Oggi siamo avviati verso una collaborazione internazionale che è veramente su tutto, sugli esperimenti, sulle operazioni, sulla composizione degli equipaggi, e quindi chiaramente anche un ritorno alla Luna o una missione su Marte non può che essere pensata sin dall'inizio come una missione internazionale, non ci sono altri modi per poterlo fare. Poi chiaramente dipenderà anche dalle risorse finanziarie che ciascun paese o ciascuna organizzazione sarà in grado di mettere diciamo sul tavolo, e quindi questo darà poi anche la dimensione di chi magari avrà più voce in capitolo di altri. Chiaramente pagando di più si sviluppano più elementi e quindi si ha un po' una funzione di guida. Quello che vorrebbe fare l'Europa è trovare delle nicchie di competenza, anche basata sulla nostra esperienza della stazione e anche su altre attività in altri settori, per poter in qualche modo contribuire come un partner di primo livello e quindi contribuire anche alla definizione della strategia. Ad oggi, in base alle informazioni che abbiamo, che cosa possiamo dire della vita futura della Stazione Spaziale Internazionale? Le informazioni che abbiamo vanno tutte nella direzione di un'estensione da parte degli Stati Uniti. Perché dico estensione da parte degli Stati Uniti? Perché erano stati gli Stati Uniti a mettere una scadenza 2015. In realtà noi come Europa non ce l'abbiamo in nessun documento ufficiale, nel documento che governa la gestione, diciamo, a livello politico e programmatico della Stazione Spaziale Internazionale non ci sono limitazioni. È chiaramente una questione rapporto costo-beneficio, e sicuramente all'inizio, visto che la stazione verrà completata l'anno prossimo, pensare ad almeno 10 anni di utilizzazione sembra il minimo ai partner internazionali. Questo poi dipenderà anche da queste review continue che facciamo sullo stato dell'utilizzazione. Chiaramente più moduli ci sono a bordo, più è possibile lanciare esperimenti, più è possibile avere scambi di esperimenti. Adesso abbiamo 6 astronauti a bordo e quindi alcuni c'è più modo di occuparsi sia delle operazioni della stazione che anche della parte scientifica, ma noi abbiamo quella che chiamiamo la Six Crew Capability, cioè 6 astronauti permanentemente a bordo, soltanto dalla fine di maggio di quest'anno, quindi anche lì siamo un po' in rodaggio. Ma le cose vanno anche lì benissimo, c'è bisogno di fare delle verifiche in vari step, e quindi poi quanto la stazione verrà operata, cioè fino a quando, ci vuole. La decisione deve essere basata su un fatto tecnico, cioè quanto gli elementi in orbita sono in una condizione, diciamo, tale da consentire di avere astronauti a bordo, quali sono i veicoli che possono raggiungere la stazione, quindi chiaramente con lo shuttle che viene messo a terra, con la flotta degli shuttle messi a terra l'anno prossimo, se non cambia nulla nelle prossime settimane, questo chiaramente riduce la possibilità di arrivare sulla stazione. Insomma, tutti questi elementi saranno tenuti in considerazione al momento delle varie decisioni. Lei dirige la sezione dei voli umani con astronauti. È ipotizzabile un impegno dell'Europa con una navetta vera e propria che possa portare uomini sulla stazione o anche in altre missioni? Una navetta europea è sicuramente ipotizzabile dal punto di vista tecnico. Abbiamo fatto molti studi nel passato, anche degli esperimenti, diciamo, di preparazione, e le nostre industrie, gli esperti dell'Agenzia Spaziale Europea, siamo tutti pronti per poter sviluppare questo sistema. Chiaramente è una scelta politica. E quindi i governi, gli stati membri dell'ESA devono decidere se vogliono fare questo investimento o meno, ma è un investimento non elevatissimo che però metterebbe l'Europa in una posizione di primo piano, perché avere una partecipazione alla stazione, poi una stazione all'esplorazione umana senza avere un mezzo di accesso è come avere una casa e poi ogni volta che devi andare a visitare la tua casa devi chiedere un passaggio al vicino o all'amico. Questo adesso è un paragone banale, ma rende l'idea. Noi non possiamo andare nel nostro modulo sulla stazione o sugli elementi che abbiamo costruito a fare scienza perché non abbiamo un sistema autonomo di trasporto. Questo agli stati è chiaro ed esiste almeno un dibattito su questa possibilità? Esiste un dibattito, ma c'è anche un altro tipo di dibattito che è interessante in Europa in questo momento, ed è legato al fatto che si investe molto anche in un altro settore, in altri settori che sono i cosiddetti settori applicativi, dove c'è un ritorno per diciamo il miglioramento della qualità della vita dei cittadini che è più immediato, perché invece il settore del volo umano è un settore che porta molta innovazione, porta molta scienza, ma su un tempo scala più lungo, quindi è più difficile valutarne l'immediata ricaduta, mentre su un sistema applicativo come Galileo, un sistema di navigazione, di localizzazione satellitare, è molto più evidente, diciamo, al cittadino qual è l'impatto, diciamo, il beneficio sulla loro vita. Quindi questo è un po' il dibattito. Io personalmente sono convinta che non è pensabile un futuro dello spazio senza volo umano, perché è il volo umano che consente appunto lo sviluppo di tecnologie innovative che magari vengono poi utilizzate 10 o 15 anni dopo. Ma infatti scherzavamo dicendo recentemente all'interno dell'ESA noi dovremmo organizzare lo Space Day, cioè un giorno in cui spegniamo qualunque satellite, spegniamo la stazione, spegniamo i satelliti di telecomunicazione, i satelliti meteorologici per un giorno, in modo che i cittadini di tutto il mondo si rendano conto di qual è l'importanza dello spazio nella loro vita. E questo soltanto quando una cosa ti manca, una cosa a cui sei abituato, cioè non pensi che vedere la partita di calcio è fatto attraverso il satellite, non pensi che l'andare da un posto a un altro in una città che non conosci, sì, c'è questa scatoletta in macchina, il navigatore satellitare, ma poi questo è legato a una costellazione di satelliti e così via. Il monitoraggio dei disastri naturali e tutto quello che facciamo dalla stazione, anche solo lo sviluppo per nuove medicine, per cercare di curare malattie tipo l'osteoporosi, insomma ci sono una serie di cose, anche qui ci vorrebbero 24 ore per spiegarlo, ma forse anche noi commettiamo l'errore di essere molto concentrati sulla riuscita delle missioni, chiaramente poi con esseri umani a bordo si è sempre molto molto meticolosi, come è giusto che sia, e non passiamo del tempo invece a spiegare anche in modo semplice quale vantaggio portano queste attività per i cittadini. Senta, guardando in casa europea, mi sembra di vedere negli ultimi mesi una tendenza che è quella in quasi tutti gli stati di dire, quando ci si riferisce ad un astronauta, questo è un astronauta europeo di nazionalità magari italiano, francese, tedesca, eccetera, sì, eccetera. Questa almeno apparente collaborazione esiste effettivamente, cioè esiste una Europa un po' più matura a livello spaziale rispetto a quella politica che a volte insomma tende a nazionalizzare molti molti dibattiti? Ma esiste un'Europa in crescita nel settore spaziale, ma chiaramente ci sono i nazionalismi in qualche modo. Questo perché il sistema è ancora diviso tra i vari stati membri che partecipano all'ESA per un budget che è circa la metà del loro budget nazionale, in alcuni casi 60-40, e poi hanno dei programmi nazionali, come in alcuni casi anche giusto che sia. In programmi come le telecomunicazioni o delle piccole missioni scientifiche, eccetera, questo è anche di grande beneficio perché in qualche modo anche gli stati membri, parlo essenzialmente della Germania, la Francia, l'Italia, l'Inghilterra, che sono i principali paesi, magari possono sviluppare delle missioni scientifiche anche piccoline, imparare a fare delle cose, portare questo know-how all'interno dell'Europa, quindi è un po' un circolo virtuoso. Viceversa, su grossi programmi come per esempio il volo umano, la stazione spaziale, non è pensabile che ci siano dei programmi di collaborazione bilaterale, perché soltanto facendo la massa critica è che si riesce ad essere come Europa un partner importante. E questo è ancora più vero per l'esplorazione umana, cioè andare sulla Luna è comunque... Per noi andare, per gli americani tornare, anche se ovviamente è passato molto tempo dalla missione Apollo, sono anche completamente diverse le condizioni al contorno, anche il modo in cui affrontiamo il volo umano, però è fondamentale capire che l'unico modo per fare un vero programma internazionale di esplorazione è aggregare gli stati europei intorno all'Agenzia Spaziale Europea. È un processo lungo perché deve essere di comprensione reciproca e anche di mutuo interesse tra l'Agenzia Spaziale Europea da un lato e gli Stati membri dall'altro. A proposito di nazionalismi, le faccio comunque una domanda anche sull'Italia. Noi abbiamo molti astronauti, avremo anche altrettanto, insomma, un numero elevato di astronauti anche nelle prossime missioni e abbiamo anche molto equipaggiamento. Buona parte della stazione è stata costruita dall'Italia. Qual è, in estrema sintesi, il contributo che noi abbiamo dato e che daremo alla Stazione Spaziale Internazionale? Il contributo italiano è sicuramente uno dei contributi più importanti. Dal punto di vista tecnico, in Italia c'è una delle più grosse aziende come capacità in questo settore. Per quanto riguarda l'Italia, sono stati costruiti in Italia circa il 50% dei moduli pressurizzati della parte occidentale, quindi escludendo la parte russa della stazione, che è una bella percentuale. E soprattutto l'Italia ha collaborato allo sviluppo della stazione spaziale attraverso due principali canali. Da un lato contribuendo con poco meno del 20% al programma europeo nella fase di sviluppo e dall'altro sviluppando un accordo bilaterale con la NASA che ha portato appunto alla realizzazione di questi tre moduli logistici, che in realtà hanno poi consentito anche all'Italia di essere il primo paese dopo Russia e Stati Uniti ad avere un elemento doccato, agganciato alla stazione per pochi giorni, perché lo shuttle riportava avanti e indietro i vari moduli logistici, ma comunque l'Italia è stato il terzo paese. L'Europa è arrivata molto dopo con il Columbus. Ora, questo ha portato all'Italia anche la possibilità di avere dei voli per astronauti europei di nazionalità italiana, perché nel 98 fu deciso di dismettere tutti i corpi astronauti nazionali e di creare un unico corpo astronauta europeo. Questo perché? Perché chiaramente i costi associati al training, alle missioni internazionali, soprattutto perché un astronauta in training per 3 anni deve andare in Giappone a studiare la parte giapponese della stazione, deve stare in Russia ad imparare la parte russa della stazione, deve andare in Canada, stare in Europa, andare negli Stati Uniti, è una situazione complessa, e invece che avere un astronauta per nazione si è ritenuto più opportuno nel 98 costituire questo corpo astronauti europeo. Quindi anche quando c'è una nazione come l'Italia che riesce ad acquisire delle opportunità di volo su base nazionale, in realtà poi l'astronauta viene sempre fornito dall'Agenzia Spaziale Europea, che è per esempio il caso di Roberto Vittori. Il prossimo anno è stato da pochissimo assegnato, è stata un'azione congiunta tra ASI e ESA, ovviamente poi con la NASA, è stata assegnata una missione shuttle nell'ambito dell'accordo che l'ASI ha con la NASA, ma ovviamente c'è poi un accordo tra NASA e ESA perché l'astronauta è europeo. È una missione importantissima, tra l'altro, un volo shuttle che porta un esperimento di grande scienza, di fisica fondamentale, che cerca la materia oscura, si chiama MS, Antimatter Spectrometer, tra l'altro con un responsabile scientifico premio Nobel per la fisica, professor Samuel Ting, e dove c'è anche parecchia Italia, perché è stato sviluppato molto anche in Italia, e quindi avere per esempio questa combinazione, cioè un esperimento sviluppato a livello internazionale, un astronauta italiano su un volo shuttle, astronauta italiano ma che in realtà viene fornito dall'ESA, anche questo, come vede, è proprio un insieme di attività internazionali che convergono su una stessa missione. Quella che avete ascoltato è l'intervista integrale a Simonetta Di Pippo, che guida il Dipartimento per il Volo Umano all'Agenzia Spaziale Europea. Un'intervista integrale disponibile solo nella nostra versione podcast, quindi con la trasmissione scaricata dal nostro sito internet attraverso il servizio podcast. Trovate tutte le informazioni su www.radio24.it, oppure se volete scriveteci una email a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione. Ci risentiamo la prossima settimana, il sabato, nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure online su www.radio24.it. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.